24, la storia. Buongiorno e bentrovati su Mix 24. Il 25 aprile del 45 la liberazione di Milano segnava la fine della Seconda Guerra Mondiale in Italia. Oggi, a 70 anni di distanza, cerchiamo di ripercorrere quella giornata di libertà, l'alba di una rinnovata democrazia. Milano, aprile 1945. In una città livida, attraversata da funerali di gerarchi e camicie nere caduti negli scontri con i partigiani, il duce del fascismo tenta di giocare le sue ultime carte. Ha capito che la guerra è persa. In quelle stesse ore, all'oscuro di Mussolini, il generale delle SS Karl Wolff cerca di patteggiare la resa dei tedeschi con gli alleati, mentre i partigiani si preparano all'insurrezione. I milanesi si aggirano tra le macerie scrutando il cielo. Il terrore è un nuovo devastante bombardamento. Fuori dai rifugi c'era una scritta che era US, che voleva dire uscita di sicurezza. Ma i milanesi, sapendo che qualche volta le bombe venivano giù e colpivano anche i rifugi, l'avevano chiamato ultimi sospiri. E sono gli ultimi sospiri tra le macerie di Milano, ma è anche l'ultimo atto del fascismo. È mercoledì 25 aprile del 45, i partigiani e le popolazioni civile insorti contro gli invasori nazifascisti hanno già liberato Bologna, Genova e Venezia, prima dell'arrivo degli alleati. Adesso è la volta di Milano, l'insurrezione della città sarà un grido di liberazione dopo un inverno terribile di fame, di violenza, di distruzione. Questa è la storia dei protagonisti di quelle ore tragiche che chiudono per sempre il ventennio fascista e gli anni della Seconda Guerra Mondiale in Italia. A Milano la Seconda Guerra Mondiale scoppia alle 18 del 24 ottobre 1942, quando 70 bombardieri inglesi scaricano il loro micidiale carico di bombe sulla città. Là dove prima c'era la folla, palazzi, negozi, rimangono ora incendi devastanti, case distrutte e centinaia di morti. A 2 anni dall'inizio del conflitto, i milanesi affondano nell'orrore della guerra. Una bomba ha colpito anche il deposito di vino della ditta Darios in piazzale Bacone e gli operai sono morti affogati nei tini. È un episodio agghiacciante. Per i milanesi, che per la prima volta sono costretti a rifugiarsi nei ricoveri pubblici, è un brusco risveglio. Ascoltiamo padre Camillo De Piaz, Maria Augusta Bruni e Liliana Segre, testimoni di quella Milano in guerra. Si trattava soprattutto di bombe incendiarie, Tanto che si passava attraverso questo piccolo sentiero che rimaneva, no? tra le macerie di una parte e le macerie dell'altra, e sopra le fiamme che si congiungevano, si passava sotto una galleria di fuoco. Corso Sempione era irriconoscibile ed era un ammasso di macerie. Le case, i grattacieli non esistevano più. Nel 42, io mi ricordo, avevo 12 anni, quindi me lo ricordo molto bene, cominciarono fortissimi bombardamenti su Milano e mi ricordo che quasi ogni notte suonavano le sirene e andavamo in rifugio. Si moriva come topi nei rifugi perché avevano attrezzato rifugio le cantine delle case. Verso casa mi sono fatta velocemente tutto Corso Indipendenza e allorché sono arrivata in via Compagnoni c'era già mio fratello spaventatissimo che mi aspettava e come mi ha visto mi ha preso e mi ha portato immediatamente nel rifugio di casa nostra. Purtroppo il giorno dopo sapemmo che il rifugio di Piazza Tricolore era stato colpito e erano morti tutti quanti. Era la voce di Marcella Orlandi. La caduta di Mussolini dopo il 25 luglio del 43 genera anche a Milano l'illusione che la guerra sia finita. Una speranza subito svanita. Pochi giorni dopo, in agosto, Milano subisce il più feroce attacco sofferto fino a quel momento da una città italiana. In 4 giorni cadono oltre 2000 tonnellate di bombe. Il bilancio finale è drammatico. 240 industrie distrutte o gravemente danneggiate, 12.000 edifici crollati, più di 15.000 quelli danneggiati. Colpite la Scala, il Duomo e decine di altri monumenti. Le centrali elettriche bloccate, la rete di trasporti e di comunicazioni quasi totalmente inservibili. I morti sono centinaia. Molti fuggono da Milano. Fu colpito anche il Duomo, in parte, l'abside del Duomo. Quindi a quel punto Milano divenne una città, si svuotò quasi il centro di Milano e divenne una città di fuggiaschi. C'erano i bombardamenti di notte, era una cosa tremenda, noi lo sapevamo qualche minuto prima perché uno vicino a noi aveva un telefono e ci diceva: guardate che fra mezz'ora suona l'allarme. Mia mamma si preparava, ci faceva alzare, io avevo una valigetta e in questa valigetta mia mamma aveva messo dell'acqua e un martello, dei medicinali, delle bende. Si andava giù in cantina, io avevo questa valigetta, mia mamma pensava che in caso di pericolo, in caso avessero sfondato i muri, una bomba così, io con questo martelletto o qualcun altro avrebbe potuto tirarci fuori da questa cosa. Nei rifugi, che dovevano essere come rifugio della vita, si sentiva l'aereo che lanciava bombe, si sentiva pum, pum, pum, sempre più vicino, fino a che si aveva la sensazione netta che un pum accadesse sulla tua casa. Subito dopo l'annuncio dell'armistizio, tra il 10 e il 12 settembre del 43, Milano viene occupata dai reparti della divisione Waffen-SS di Hitler. Pochi giorni dopo nasce la Repubblica Sociale Italiana, che si insedia a Salò, una cittadina sulle rive del lago di Garda. Ma la vera capitale della Repubblica è Milano. Riprendiamo da qui dopo la viabilità. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24. È l'aprile del 45. Milano è ufficialmente occupata dalle truppe tedesche. Nell'hotel Regina, in via Silvio Pellico, si stabilisce il comando delle SS naziste. In via Rovello si insedia la legione Muti, comandata da Francesco Colombo. Il comando generale tedesco è all'hotel Gran Turismo. Immediatamente comincia la caccia agli ebrei e agli antifascisti e viene imposto un rigido coprifuoco. Ascoltiamo ancora le voci dei testimoni. Dopo l'8 settembre si capì che la situazione per gli ebrei si faceva pericolosissima. Tutti quelli che avevano capito, tutti quelli che potevano, tutti quelli che avevano preso una decisione saggia fuggivano, se non erano già fuggiti, fuggivano in quei giorni. Mio papà decise, sapendo di rastrellamenti, sapendo di caccia all'uomo, decise che io sarei andata via di casa. La cosa enorme e terribile che mi rimase in mente ancora oggi era il coprifuoco, perché dalle 8:30 della sera c'era il coprifuoco, il che significava che dalla stazione centrale, se uno andava fuori Milano, arrivava, non c'erano più mezzi, non c'era più niente, e c'erano pattuglie nemiche che appena vedevano delle persone in giro sparavano. Imbucandomi all'Eir, Radio di Stato, se tu avevi un lavoro alla Radio di Stato ti davano l'Ausweis, col quale evitavi le retate tedesche, evitavi di essere fucilato per resistenza alla leva. Abbiamo riempito il convento di rifugiati, e anche di rifugiati che volevano sottrarsi all'arruolamento nella Repubblica, nell'esercito della Repubblica Sociale Italiana. Mi sono salvato la pelle diventando non bandito, ma bandista, cioè ero l'istruttore della banda, della piccola banda dei carabinieri di Via La Marmora a Milano. la voce di Fabio Borgazzi. Gennaio 1944. La guerra divampa su tutti i fronti. Sul fronte russo, le armate di Stalin infliggono una sconfitta dietro l'altra all'esercito tedesco. In Italia gli alleati sono fermi ad Anzio, dopo lo sbarco a sud di Roma, bloccati sui fiumi Rapido e Garigliano in piena. Nell'Italia occupata prende sempre più piede la resistenza armata, a cui partecipano tutte le forze politiche, dai comunisti ai cattolici. Il 31 gennaio il Comitato di Liberazione Nazionale Lombardo, con sede a Milano, viene investito di poteri di governo straordinario del Nord e assurge al rango di Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia. Milano è ora, a tutti gli effetti, il centro della resistenza italiana. Ascoltiamo Quinto Bonazzola e Giorgio Bocca. Mi ricordo, non recentemente, ma insomma, un film sulla resistenza dove si vedono queste forze armate, che, bene armate, che sparano, quando schiacciano il grilletto il fucile spara e tutto funziona bene. La realtà era diversa, le armi erano pochissime, erano di provenienza diversa. L'opinione pubblica, che è stata mal informata, immagina la guerra partigiana come molto diversa da come è stata in realtà. Cioè, l'immagine come una guerra di pari grado, come se fra noi tedeschi fascisti ci fossero state le stesse possibilità, la stessa dimensione, le stesse misure, mentre invece non era una guerra alla pari, perché i tedeschi avevano carri armati enormi e una superiorità di mezzi di fuoco notevolissima. Ma la resistenza non può niente quando il 30 gennaio più di 600 ebrei milanesi, tra cui numerose donne e bambini, sono costretti in due convogli ferroviari e spediti nel campo di concentramento di Auschwitz. Solo 20 sopravvivono oltre la liberazione, avvenuta nel 1945. Proprio da dove partì quel treno, dai sotterranei della stazione di Milano, verrà realizzato un memoriale dei deportati ad Auschwitz. Su quel treno c'era Liliana Segre. Non aveva 14 anni. Arrivati con i camion alla stazione di Milano, ecco che entrammo nei sotterranei della stazione, in quel ventre nero che nessuno di noi sapeva che esistesse e che c'è ancora, tale quale, come allora, e lì con una violenza inaudita, in un momento di una confusione incredibile, scaricati dai camion, con la stessa violenza venivamo caricati sul vagone che era preparato lì per noi. Quel trasporto del 30 gennaio 1944 conteneva 605 persone. Siamo tornati in 20. Avete ascoltato la voce di Liliana Segre. Con l'arrivo della primavera avviene lo sfondamento. Gli alleati hanno la meglio sulla resistenza tedesca e il 4 giugno entrano finalmente a Roma tra il tripudio della popolazione. Da Salò Mussolini decreta 3 giorni di lutto nazionale. A Milano chiudono i cinema, i teatri, la radio trasmette solo musica seria. In vista della liberazione viene creato il Comando Generale per l'Italia Occupata del Corpo Volontari della Libertà, che sarà assunto dal generale Raffaele Cadorna, appositamente paracadutato nel nord Italia. Questo è il riconoscimento del ruolo della resistenza. Contemporaneamente arrivano a Milano e in tutta l'Italia del nord le trasmissioni del programma Italia Combatte, con un messaggio del generale Alexander, comandante delle truppe alleate. L'Italia Combatte. Questa trasmissione è dedicata ai patrioti italiani che lottano contro i tedeschi. Rileggiamo il messaggio del generale Alexander, comandante in capo degli eserciti alleati in Italia, a tutti i patrioti dell'Italia occupata. La liberazione d'Italia si sta attuando. Cooperate con me. Insieme noi raggiungeremo la vittoria. Preparate agguati alle colonne di autotrasporti durante la notte. Uccidete tedeschi. Fate saltare piccoli ponti e sovrapassaggi. i gruppi di patrioti dell'Italia settentrionale distruggano le linee ferroviarie, tagliate i fili telefonici, aggravate la confusione nelle retrovie del nemico, voi potete essere di grande aiuto nella liberazione della vostra patria. E comincia la guerra anche sul fronte radiofonico. Radio Londra viene ascoltata anche a rischio della propria vita. La vita a Milano in qualche modo continua. Si va ancora e sempre al cinema, forse addirittura più di prima. I film sono ancora quelli di prima dell'8 settembre, perché quelli sfornati a Venezia, dove Mussolini ha fatto trasferire Cinecittà, non arrivano nelle sale milanesi. Tra gli attori più vicini al regime ci sono Osvaldo Valenti e Luisa Ferida, che non mancano di farsi vedere a Milano nella cosiddetta Villa Triste in via Masaccio, dove i fascisti della banda di Pietro Koch si macchiano di efferati crimini e torture. Nei cinema, prima dei film, i cinegiornali tratti dai filmati tedeschi mostrano i bagni di folla del Duce e del suo alleato germanico. Nell'estate del 44 la repressione nazifascista è violentissima. Le vie di Milano diventano il teatro di atroci rappresaglie. Il 16 luglio la polizia tedesca fa fucilare 3 ferrovieri allo scalo di Greco. Il 21 5 civili a Robecco sul Naviglio. Il 31 luglio 6 gappisti all'aeroporto Forlanini. Ma la fucilazione che più resterà nel ricordo dei milanesi sarà quella del 10 agosto, quando 15 partigiani saranno ammazzati in piazzale Loreto. Si tratta di un provvedimento come rappresaglia per un attentato avvenuto il giorno prima contro le forze germaniche in Viale degli Abruzzi, dove è stato fatto esplodere un ordigno su un autocarro della Wehrmacht. I cadaveri dei 15 partigiani sono ammucchiati in un angolo della piazza, con un cartello che li indica come banditi, e vengono lasciati fino a sera perché la gente del posto li veda. La fucilazione ha avuto luogo alle 6:30 della mattina per mano della Muti italiana, perché i tedeschi hanno obbligato i brigatisti neri a fucilare gli antifascisti milanesi. Sono morti non tutti subito, c'è stato qualcuno che ha tentato di fuggire, ma sono stati fucilati tutti, e poi per ordine del comando militare tedesco questi morti sono stati tolti dalla piazza fino alle 6 di sera. E mi ricordo certe donne fasciste, me ne ricordo una in particolare che faceva la guardia a questo mucchio di cadaveri, strusciando, pulendosi in maniera così spavalda le scarpe su qualcuno dei corpi che incontrava girando attorno lì. Davanti a questo cumulo di corpi abbandonati proprio non ci siamo neanche parlati, non abbiamo detto nulla, nessuno ha detto niente, però è scattata lì la volontà di reagire. Il 20 ottobre del 44 Milano è colpita dal bombardamento più crudele della guerra. Una formazione americana colpisce gli stabilimenti della Breda, dell'Alfa Romeo e della Isotta Fraschini. Un aereo però sbaglia bersaglio e scarica le sue bombe su una scuola nel quartiere di Gorla. È la strage. Continuiamo dopo la pubblicità. Mix 24, la storia. Ben trovati su Mix 24. Milano, ottobre del 44, un bombardamento delle truppe alleate colpisce una scuola nel quartiere di Gorla. Nonostante sia sovrastata da un'enorme croce rossa, la scuola elementare Francesco Crispi viene colpita in pieno. Una bomba si infila nell'androne delle scale, uccidendo 184 bambini insieme agli insegnanti e ai genitori accorsi quando avevano sentito suonare l'allarme. Bombardamenti terribili. Adesso, col senno di poi, e così lontani dalle passioni, e dagli eventi di allora, si potrebbero, col linguaggio di oggi, abusatissimo di oggi, chiamare terrorismo, perché l'obiettivo non erano tanto, diciamo, i militari, l'esercito o che so io, erano proprio i civili, l'abitato civile. Dopo la tragedia di Gorla cambia il codice dell'ululato delle sirene. Bisogna essere sempre più rapidi, ma in molti casi il bombardamento non viene neanche segnalato. La linea gotica spacca in due l'Italia e le prospettive della liberazione si allontanano sempre di più. A Milano ci si prepara ad un altro inverno di guerra. Ascoltiamo Gianni Bongiovanni. Un giorno, mentre vado alla radio in tram, il 24 che portava in fondo a Via Ripamonti, sale un bambino non molto ben messo, strano, comincia a muoversi, andare su e giù, biascicando cose che non si capisce, poi parla sempre più forte e comincia a capire, quello che dice è: non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire, sempre più forte, non voglio morire, non voglio morire. Alla fine gridava: non voglio morire. Non ci voleva molto per capire che doveva aver assistito a un'esecuzione sommaria di, non so, qui un partigiano, un renitente alla leva. Cari camerati milanesi, rinuncio ad ogni preambolo ed entro subito nella materia del mio discorso. Teatro Lirico di Milano. Sono le 4 del 18 dicembre del 1944. Mussolini non parla davanti ad un vasto auditorio da oltre un anno e in particolare a Milano non torna da lontano 1936. Mussolini incita alla Repubblica Sociale, promette una costituente da convocare dopo la guerra, parla persino di affiancare al Partito Unico altri raggruppamenti con compiti di controllo e soprattutto esalta la forza e il coraggio di Milano, la città condottiera dove è nato il fascismo, la città che i bombardamenti non hanno ancora piegato. È Milano che deve dare da là gli uomini, la volontà e il segnale della ritratta. La folla del Teatro Lirico lo applaude in delirio. Ancora oggi si discute dell'accoglienza e dell'entusiasmo che il duce trova nel capoluogo lombardo. Mussolini, ad un certo punto, sale su un carro armato e arringa la folla. Bisogna riportarsi a quelle giornate in cui ebbero un ruolo importante anche degli aspetti emotivi. Per esempio la faccenda di questo Mussolini che torna nel momento della sua sconfitta nella città in cui aveva fondato il fascismo, crea una sorta di affascinazione per cui molti milanesi, sia fascisti che non fascisti, assistettero a queste sue ultime discorsi, queste sue ultime apparizioni. Era la voce di Giorgio Bocca. Molti segnali però fanno pensare che il duce è il primo a non credere alle sue parole. In tutta Milano gerarchi e approfittatori del regime stanno convertendo immobili, titoli e tenute agricole in oro e gioielli. E lo stesso Mussolini, pochi giorni prima del discorso al Lirico, ha venduto all'industriale Gian Riccardo Cella la sede, lo stabilimento e i macchinari del Popolo d'Italia, il giornale che lui stesso aveva fondato. La cifra sembra si aggiri sui 100 milioni di lire dell'epoca, ma la follia di alcuni gerarchi non ha limiti. No, tu non sei più la mia bambina, È arrivata la primavera del 1945. A Milano e in tutta la Lombardia ci si sposta sui carri bestiame, mentre i tram circolano tra le macerie. Dal barbiere si va per strada e i giornali ammoniscono di controllare continuamente i rubinetti del gas. Sono troppo gelidi i tuoi baci per riscaldarmi il cuore. Il 10 aprile il generale Clark annuncia l'inizio dell'offensiva anglo-americana verso la Valle del Po. Ricorda ai partigiani che è opportuno che le città italiane siano liberate dalle truppe alleate. Ma il CLN non è dello stesso avviso. Togliatti scrive a lungo in questi termini: il nuovo ordine del giorno del generale Clark è stato emanato senza l'accordo del governo né nostro. È Luigi Longo da Milano a diramare disposizioni per l'insurrezione nazionale. L'ordine è liberare i grandi centri del nord prima dell'arrivo degli alleati. I primi a scendere in lotta sono i ferrovieri piemontesi. Ma Torino non è un caso isolato. Le armate di Clark sono entrate il 21 aprile a Bologna, ma sono state precedute dalle forze partigiane. E poi è la volta di Modena, Reggio, Parma. I tedeschi si ritirano in fretta, al di là del Po. Il 23 aprile insorge Genova. Una catena inarrestabile che viaggia verso Milano il 25 aprile, la data simbolo della liberazione. A Milano, in quelle giornate, oramai si contano più di 300.000 sfollati e sono almeno 250.000 i senza tetto, costretti a vivere nei cunicoli e nelle cantine sotto le macerie dei palazzi bombardati. Le vie del centro sono attraversate dall'ennesimo funerale. Radio Londra fa sapere che i russi sono alle porte di Berlino e stringono d'assedio il bunker in cui è asserragliato Hitler. Sul Po crolla il fronte di difesa. Le armate germaniche sono allo sbando. Dalla radio, intanto, arriva la voce di Sandro Pertini, comandante delle brigate Matteotti. Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire. È l'alba della liberazione. Già dalle prime ore del 24 aprile, Luigi Longo, comandante generale delle brigate d'assalto Garibaldi, ha redatto l'ordine di insurrezione. L'inizio delle operazioni a Milano è fissato per le 14 del 25 aprile. Allo scattare dell'ora X, operai, tecnici e impiegati devono recarsi presso i posti di lavoro. Il loro compito è quello di difendere gli impianti e impedirne la distruzione da parte del nemico, attendendo l'arrivo dei partigiani dalle zone di montagna. La rivolta nasce spontanea già nelle prime ore del 24, a seguito di alcuni scontri nella zona di Niguarda. Alle 15 un camion di soldati tedeschi in fuga forza un posto di blocco partigiano. Per aprirsi la strada sparano alla cieca. Gina Galeotti Bianchi, in nome di battaglia Lia, sta andando all'ospedale Niguarda. Una raffica di mitra la uccide. È il primo caduto della liberazione di Milano. Lia era incinta di 8 mesi. Nella notte, la terza brigata Garibaldi occupa la caserma Niguarda. Le brigate Matteotti si impadroniscono dei blindati tedeschi parcheggiati nella fiera campionaria. Alle 8 del mattino del 25 aprile si riunisce il Comitato di Liberazione Nazionale che approva l'ordine di insurrezione e affida al Comitato tutti i poteri civili e militari. Alle 11 a Sesto San Giovanni entra in vigore il piano per la difesa delle fabbriche e alle 13 ha inizio lo sciopero dei tranvieri. Le vetture sono lasciate nei depositi e abbandonate per le strade. Tra mezzogiorno e le prime ore del pomeriggio vengono occupate tutte le principali fabbriche. I partigiani entrano nelle sedi del Corriere della Sera, della Gazzetta dello Sport e del Popolo d'Italia. Prendono possesso degli impianti e pubblicano le prime copie dell'Unità, dell'Avanti e d'Italia Libera, organo del Partito d'Azione. Ascoltiamo Giorgio Bocca. Sull'insurrezione di Milano sono state dette delle cose fuorvianti, nel senso parecchi hanno detto a Milano non c'è stata l'insurrezione. Effettivamente a Milano non ci poteva essere l'insurrezione perché prima di tutto la città era molto distante dalle formazioni partigiane, sia da quelle dell'Oltrepò che da quelle delle valli bergamasche e bresciane. In secondo luogo perché a Milano si sono concentrate nei giorni della disfatta tutte le forze fasciste al seguito di Mussolini, c'erano circa 30-40 mila uomini armati che nessuna forza partigiana avrebbe potuto affrontare in campo aperto. In quelle stesse ore, alle 17 del 25 aprile, Mussolini sta salendo le scale dell'arcivescovado insieme al ministro Zerbino, il sottosegretario Barracu, il prefetto Bassi, il maresciallo Graziani. Si reca a un colloquio con l'arcivescovo di Milano, l'arcivescovo Schuster, e vuole trattare la resa. Schuster ha convocato anche i rappresentanti del CLN e spera con questo incontro di bloccare l'insurrezione. Ha paura che su Milano avanzi il pericolo comunista, vuole essere lui a gestire la resa in modo da evitare scontri e altre sofferenze ai milanesi, una popolazione che è già duramente messa alla prova dalla guerra. Sono le ore decisive di quel 25 aprile del 45. Riprendiamo il racconto dopo la viabilità. Mix 24. La storia. Bentornati su Mix 24. Nel suo studio il cardinale Alfredo Schuster si è imposto come mediatore per gestire la terribile situazione di una Milano devastata dalla guerra. Schuster intrattiene un Mussolini sempre più irritato per il ritardo dei rappresentanti del CLN. Il Duce non sa che sono gli stessi uomini che hanno firmato in mattinata il decreto di condanna dei gerarchi e dei membri del governo della Repubblica Sociale, condanne a morte o all'ergastolo. Con un'ora di ritardo arrivano il generale Cadorna, comandante del Corpo dei Volontari della Libertà, e i rappresentanti di CLN, Riccardo Lombardi e Achille Marrazza. Il cardinal Schuster aspetta anche il generale delle SS Karl Wolf, ma non verrà. I tedeschi, all'insaputa del duce, si sono già arresi. Alla notizia, Mussolini è furibondo, indignato. «Ci hanno sempre trattato come schiavi e servi e alla fine mi hanno anche tradito. Tornerò tra un'ora», esclama, e se ne va. Scendendo per le scale, incrocia, senza riconoscerlo, Sandro Pertini. Ascoltiamolo. Ed ecco, quando io giro, a un certo momento ero qui, mi fermo perché vedo scendere un gruppo di persone e riconosco Mussolini. Dove era? Mussolini veniva giù, così, era in testa, seguito da Graziani, da Baracco, mi hanno detto poi Zerbini, e Bassi. Lo vidi torvo in volto, molto disfatto, molto accigliato. Intanto Mussolini organizza la fuga, non si fida più di nessuno e teme per la propria vita. Alle 19.30 lascia la prefettura di Milano con numerosi gerarchi e una scorta delle SS alla volta di Como. A bordo c'è anche il maresciallo Graziani e Claretta Petacci, la donna che gli resterà accanto fedele fino alla fine. A mezzogiorno del 26 aprile, mentre per Milano sfilano i partigiani, arriva un messaggio da Radio Milano Liberata. La sede è quella di Radio Tevere che dalla notte del 24 è stata occupata dai partigiani. Dalla frontiera svizzera, fonti bene informate annuncerebbero la cattura di Mussolini da parte dei patrioti italiani presso la località di Palenzo. Il maresciallo Graziani, dopo aver cercato inutilmente scampo in Svizzera, si è arreso alle formazioni patriote di Como. Sempre a Como, il segretario del Partito Fascista Repubblicano, Pavolini, si è asserragliato con un centinaio di camicie nere in una caserma ed è strettamente assediato dai nostri partigiani. A Dongo viene organizzato un tribunale speciale. Mussolini e Claretta Petacci con altri 51 fascisti, tra cui 16 gerarchi, sono condannati a morte. Tra questi Barracu, Pavolini, capo delle Brigate Nere e segretario del Partito Fascista della Repubblica di Salò. vengono condotti sul lungo lago dove li aspetta il plotone di esecuzione. Mussolini e Claretta Petacci vengono portati fuori Dongo, a Giulino di Mezzegra. Qui vengono fatti scendere dall'auto davanti a un cancello e giustiziati. Alle ore 3 del mattino del 29 aprile, i corpi di Benito Mussolini, di Claretta Petacci e di altri 15 esponenti della Repubblica Sociale Italiana sono scaricati in Piazzale Loreto, la stessa piazza dove 15 partigiani erano stati fucilati dai fascisti ed esposti per ore come monito per la popolazione. Ce ne parla Giorgio Bocca. Piazzale Loreto era un appuntamento obbligatorio, perché bisognava far sapere agli italiani e al mondo che il capo del governo fascista e i suoi gerarchi erano stati catturati e fucilati. Con il passare delle ore, la notizia che il cadavere di Mussolini è a Piazzale Loreto attira una folla di curiosi. Tutta Milano accorre, tutti vogliono vedere. I cadaveri vengono appesi a testa in giù. Non molti sanno, anzi pochissimi, che il fatto che vennero appesi i cadaveri a un distributore di benzina non è stato un atto di sadismo, ma è stata una necessità, perché la folla di milanesi che volevano vedere il Duce morto era talmente enorme, si accalcava talmente sui partigiani di guardia che furono costretti ad alzare questi cadaveri perché li vedessero anche da lontano. E a Milano c'era il caos perché i tram, gli autobus tendevano a fare i loro percorsi deviando però verso Piazza Loreto affinché i cittadini vedessero l'immagine di queste persone appese. Mentre Piazzale Loreto si svuota lentamente, le avanguardie della Quinta Armata degli Stati Uniti entrano a Milano. La folla li saluta con esultanza. Gli ultimi reparti tedeschi si arrendono e si consegnano agli angloamericani. Il comando generale tedesco trasloca cercando di salvare documenti e attrezzature. I soldati passano tra due ali di folla che sfoga la sua rabbia insultandoli e malmenandoli. Tra la folla ci sono anche donne rapate a zero. Sono accusate di essere state delle aguzzine o delle collaborazioniste. Alcune lo sono state per davvero, molte altre semplicemente pagano la colpa di storie d'amore con tedeschi o con fascisti. Ascoltiamo ancora Massimo Marchesotti. Ecco, nei mesi o nei giorni successivi, il 25 aprile, è la gioia, la grande gioia di non aver più l'oscuramento, di non sentire più le sirene che suonavano, e soprattutto nei cortili, la grande gioia di lasciarsi andare con i balli, con le fisarmoniche, con i violini, la gente che accendeva le luci, le luminarie nei cortili e la gente che ballava. Il 30 aprile Filippo Sacchi, condannato a morte, è tornato quella notte dalla Svizzera, ha scritto nel suo diario: Milano a pezzi, Milano impolverata, Milano arrocchita, ma tutta in piedi. A Caserta le forze tedesche in Italia firmano la resa con gli angloamericani. Il 6 maggio a Milano si organizza la grande sfilata della liberazione con tutti i partigiani. È l'atto simbolicamente conclusivo della resistenza italiana contro il nazifascismo. La Madonnina del Duomo viene liberata dalla copertura che l'aveva riparata per 6 anni. La guerra è veramente finita.